Radio Cairo presenta Cento anni di cinema. A cura di Ole Sani. Cari amici, la forza di cinema e l'otto d'oro che ci porta in un mondo molto affascinante, meraviglioso. Questo mondo ci dimentichiamo più facilmente, mentre si è tornati i momenti del paese, sempre più schermo. E parlando di un'altra settima, non si può negare il gran merito del cinema italiano in questo campo. Grazie alla sua lunghissima storia, la grande contributo degli artisti egiziani in arabi, molto arabi, che hanno svolto tanti sforzi e sacrifici con quegli anni per vedere grandi sforzi degli egiziani. Buonasera carissimi ascoltatori e benvenuti ad una nuova edizione dei vostri programmi su cinema e cercati di cinema. Stasera dedichiamo la puntata sul documentario della serata di 18 di notte prodotto nel 2012. Si tratta di Marcel Guarani, o Barchetta di Casa, prodotto, scritto e girato dal solo regista egiziano Sergi Nour. Questo cortometraggio ha partecipato alla 23ª edizione del Festival del Cinema Africano, Asia e America Latina a Milano. Ci sono stati nel corso della fase 2012. Vi daremo più dettagli durante questa sera, prossimo spazio musicale. Parliamo stasera, Marcel Guarani, Barchetta di Casa. La Barchetta di Casa funziona e nasce comunque un giovane italiano. Passando il suo giorno, nasce con studio di notte, e la notte, il vino e del grosso. Durante uno dei vagabondaggi del protagonista, incontra una ragazza, un giovane protagonista che si sta bevendo una bevanda e ha una sigaretta in sesta pace dopo una lunga giornata di lavoro. Termina offese con la sua videocamera e compagni mentre passeggiano e conversano sulla situazione attuale dell'Egitto e il futuro del paese dopo la rivoluzione del 25 gennaio 2011 e tutti i cambiamenti politici, economici e sociali che accadono di noi. Per lei è un'esperienza nuova stare qui, di notte, parlare con la naturalezza che non passano tutto, però aveva bisogno di farlo per scappare dalla monotonia della sua vita di ogni giorno. Amici, spero che la sua intesa di scatola non sia stata di stasera, ma di Thank you. parlare del tuo amico. Thank you. Thank you. Grazie. Grazie.